L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, buone feste, questa è l'ultima puntata del 2013 e la dedichiamo a una scadenza importante che abbiamo raggiunto in quest'ultima settimana dell'anno. Dal 26 di dicembre, infatti, sono scattati in Italia i nuovi limiti della quantità tollerabile di piombo nell'acqua, previsti da un decreto legislativo del 2001 che hanno portato il limite a 10 microgrammi litro dai 25 microgrammi per litro precedenti. Perché è così importante? Il piombo nell'acqua in dosi eccessive fa molto male alla salute, soprattutto ai bambini. Disturbi neurologici, comportamentali, malattie cardiovascolari, problemi ai reni, ipertensione, ridotta fertilità, aborti, ritardo nella maturazione sessuale e alterato sviluppo dentale. Questi i possibili effetti, insomma, non si scherza. Questi più di 10 anni trascorsi dal decreto all'entrata in vigore dei nuovi limiti sono serviti ai gestori dei servizi idrici per adeguarsi alla normativa, perché il piombo arriva nella nostra acqua essenzialmente da condutture vecchie che vanno sostituite. Ma nemmeno questo ci mette del tutto al riparo. Il piombo può sempre arrivare dai tubi del nostro condominio o delle nostre abitazioni. Queste non sono di competenza delle aziende che gestiscono i servizi idrici. L'Istituto Superiore di Sanità ha quindi elaborato una nota informativa in merito alla potenziale contaminazione da piombo in acque destinate a consumo umano. Si chiama così. E allora abbiamo chiesto a Luca Lucentini, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, di aiutarci a fare chiarezza, a cominciare dalla prima e più ovvia questione. Quando è il caso di preoccuparsi? Quando è legittimo sospettare che l'acqua del rubinetto di casa nostra sia contaminata dal piombo? Il piombo è uno dei primi, forse il primo metallo utilizzato per la costruzione di tubazioni per l'adduzione di acqua potabile, quindi è molto remoto, era molto usato dai romani. Fino ai nostri giorni è stato usato ampiamente fino agli anni 60, dopodiché è stato drasticamente ridotto l'uso, ma non insomma sporadicamente veniva ancora utilizzato. Quindi diciamo, se io sono in un'abitazione di un centro storico, sono sicuro che gli impianti non sono mai stati rinnovati e dovrei comunque far fare un'analisi dell'acqua. L'analisi della concentrazione di piombo nell'acqua è l'unico modo per accertare o meno se sono a rischio. Poi magari si può sì, uno conoscere... chieda prima all'amministratore, ecco, se ci sono stati degli interventi certamente che hanno già sanato delle situazioni. Certamente, certamente. E poi ecco, nel momento in cui si dovesse mettere mano all'impianto, raccomandiamo di affidarsi a prodotti assolutamente conformi alla normativa. Perché l'unica possibilità è la rimozione. Purtroppo se la cessione di piombo deriva dall'impianto in generale di distribuzione, la soluzione definitiva e drastica è rimuovere l'impianto, non abbiamo altre possibilità. Vero è che la cessione di piombo dipende molto dalle caratteristiche dell'acqua, viene chiamata la passivazione dei tubi, cioè col tempo, diciamo con l'età del materiale, la tendenza a cedere può essere consistentemente ridotta, quindi magari potrei anche avere un impianto con molte componenti in piombo che ceda poco perché per esempio si è formato uno strato di calcare che è protettivo rispetto a questo. Dipende caso per caso, insomma, ripeto, l'unico modo per valutare il rischio è quello di fare l'analisi dell'acqua, eventualmente ripetendola nel tempo se so di avere una situazione a rischio. Proprio in caso di situazioni a rischio, voi suggerite un test da fare per capire se c'è davvero contaminazione o no. Qual è? La procedura è abbastanza semplice perché consiste nel mantenere innanzitutto la tubazione chiusa per un certo numero di ore, soprattutto superiori a 4 ore in generale. Diciamo la notte, per esempio. Diciamo la notte, perfetto, evitando assolutamente qualsiasi consumo di acqua, anche da dispositivi allacciati alla rete, lavastoviglie, elettrodomestici. Quindi teniamo l'acqua stagnante nell'impianto. La mattina viene prelevato un litro d'acqua e richiuso immediatamente il rubinetto. Questo litro, questo primo campione, è rappresentativo del cosiddetto peggior scenario, cioè l'esposizione maggiore che possiamo avere perché l'acqua è rimasta a contatto col materiale per un lungo tempo. Se questo campione dovesse risultare a rischio, vale a dire la concentrazione di piombo superiore a 10 microgrammi litro, allora è utile prelevare immediatamente dopo un secondo campione. Perdoni, quel primo campione chi lo do però una volta? Allora, tutti i campioni verranno dati, diciamo, al laboratorio di analisi, un laboratorio di analisi chimiche specializzato in analisi di acqua potabile che mi determinerà la concentrazione di piombo. Potrei contestualmente, diciamo, far analizzare tutti e tre i campioni. Prelevo il primo campione, come vi dicevo, dopo stagnazione. Immediatamente dopo, un altro campione da un litro che mi dà l'idea di una eventuale cessione non della rete dell'abitazione, ma della rete immediatamente attigua, per esempio quella condominiale, quella la colonna di adduzione che mi porta l'acqua dal punto di consegna del gestore all'abitazione privata. Quindi, diciamo, questo secondo campione mi dà idea della possibile cessione da parte di una rete vicina a quella dell'abitazione. Un terzo campione che posso andare a eseguire lo raccoglierò dopo aver fatto fluire a lungo l'acqua e circa 10 minuti, raccogliendola magari e destinandola a tutti gli usi domestici per non sprecarla, e questo terzo campione mi dà idea invece della possibile cessione da piombo dovuta all'impianto esterno, cioè quello di competenza dell'acquedotto. Quindi in pratica io, raccogliendo tre campioni, potrei avere idea della possibile identificazione della causa di cessione. L'unica cosa che mi domando è, appunto, io vado adesso, torno a casa, mi metto in testa di fare questo tentativo, ma sì. Come faccio a sapere qual è un laboratorio in grado di analizzare? Allora, speriamo, abbiamo chiesto la collaborazione dei gestori idrici, cioè della società che ci porta l'acqua in casa, nel supportare questo tipo di analisi, perché loro hanno tutta l'expertise e anche la possibilità. Ovviamente le modalità di pagamento non è un'analisi particolarmente costosa, ma ovviamente riguardano sempre il privato, salvo qualche diciamo eccezione che dipende dai gestori, e sarà sempre con modalità da concordare. O altrimenti, insomma, laddove può eseguire l'analisi il gestore, è tanto meglio. Altrimenti, insomma, ci si può rivolgere a laboratori che sono sul mercato, insomma, che operano questo tipo di analisi, cercando, insomma, laboratori di esperienza e specializzati, eventualmente facendo ripetere l'analisi in condizioni diverse per avere certezza, insomma, certo, conferma. Certo. Senta, molti italiani hanno in questi anni messo quei dispositivi di filtro e di così via, quelli non aiutano in una cosa del genere? Allora, mentre aspetto i risultati delle analisi, che ho l'ansia di avere il piombo nell'acqua che bevo. L'utilizzo di questi dispositivi può essere sicuramente valido, ma diciamo è un trattamento a tutti gli effetti delle acque, e quindi bisogna informarsi molto bene innanzitutto sul tipo di acqua che abbiamo, quindi sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque prima del trattamento, poi dei livelli di piombo che dovremo trattare, cioè di che tipo di rischio parliamo, e infine del tipo di trattamento, l'impatto del trattamento non solo sulla rimozione del piombo, ma su eventuali altre azioni che può fare sulla nostra acqua. È una scelta da fare in modo molto consapevole, insomma. Quello che possiamo dire è di rivolgersi eventualmente, insomma, a questa scelta in modo consapevole e documentato, affidandosi, insomma, a professionisti e leggendo anche le indicazioni dell'autorità sanitaria. Esiste un decreto apposito per i trattamenti dell'acqua, decreto 25 del 2012. Senta, adesso la faccio tornare ufficialmente su quello che mi aveva detto prima, diciamo così, cioè dall'aspetto delle scuole, degli ospedali, delle fontane e così via. Sì. Tutto questo dovrebbe essere già stato controllato e monitorato negli anni scorsi, e i dati dovrebbero essere disponibili da qualche parte, non saranno organici come sarebbero sul sito del Ministero, potrebbero essere, forse saranno in futuro, però insomma dovrebbero essere disponibili, ecco, quindi su richiesta essere forniti. Sì, sì, sì. Beh, diciamo, il preside della scuola potrebbe accedere, se non altro può richiedere alla ASL, insomma, il risultato sull'analisi del piombo, soprattutto se è a rischio, ripeto, se è una scuola nuova, quel rischio, insomma, non è presente. Anche qui purtroppo sappiamo che in Italia le scuole sono spesso ospitate in edifici piuttosto vecchiotti. e quindi conviene magari interessarsene. Assolutamente, in questa fattispecie ecco, l'informazione è ancora una volta un elemento chiave. Quindi per scuole, ospedali, fontanelle pubbliche e così via, le informazioni devono essere disponibili presso i comuni, le ASL, i gestori delle acque. Insomma, qualcuno ce li ha i dati. Come sempre in Italia, però, bisogna cercarli. Dopo la viabilità, proseguiamo con Federutility, la federazione che riunisce le aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori energia elettrica, gas e appunto acqua, per sapere se e come aiuteranno i cittadini in questo frangente. A tra poco. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo insieme. In questa puntata stiamo parlando dei nuovi livelli di tollerabilità del piombo nell'acqua dei nostri rubinetti. Piombo che arriva essenzialmente dalle condutture, dicevamo, quelle molto vecchie. Le aziende che gestiscono i servizi idrici dovrebbero, o hanno cercato comunque, di sostituire tutte quelle contenenti piombo, ma come dicevamo prima, questo non annulla il rischio, perché le responsabilità delle aziende si fermano alle fondamenta della nostra casa, per così dire, perché da lì in poi è materia di condominio o anche di singola abitazione. Luca Lucentini dell'Istituto Superiore di Sanità ci diceva che se l'impianto della nostra casa ha più di 50 anni e non abbiamo informazione di interventi successivi, l'unica maniera di avere certezze è sottoporre ad analisi l'acqua del nostro rubinetto. Aiuterà Federutility in questo processo? Mauro Dascenzi è il vicepresidente della Federazione delle aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori energia elettrica, gas e acqua. Per cominciare, gli abbiamo chiesto se le aziende sono riuscite a centrare gli obiettivi per quel che riguarda le loro competenze. Abbiamo fatto naturalmente ciò che abbiamo potuto, nel senso che con i limiti che vi sono, poi magari avremo anche modo di approfondire questi limiti e le ragioni di questi limiti, ma noi laddove abbiamo potuto abbiamo sostituito le reti e comunque tutte le nuove reti, le nuove costruzioni di reti non hanno piombo. Infatti ora si può parlare, ora sono moltissimi anni in realtà che non si adopera più piombo per fare le reti principali, sussistono, permangono ancora naturalmente queste reti in piombo, soprattutto in vecchi centri storici dove sono stati realizzati molto tempo fa, e bisognerà anche lì progressivamente andare alla sostituzione. Da cosa è dato il piombo? Il piombo non è dato tanto o non soltanto dallo scorrere dell'acqua in tubatori di piombo, quanto dalla giacenza dell'acqua nelle tubature di piombo, cioè quando sta ferma a più di 4 ore. Allora, premesso che laddove le nostre aziende hanno potuto le hanno sostituite, comunque le più recenti, negli ultimi decenni tubature non sono state fatte, non esistono in piombo. E in un acquedotto generalmente l'acqua circola continuamente. È più problematica invece la parte terminale, i collegamenti tra i condomini, le singole case e l'acquedotto. Lì in molti casi, in alcuni casi, le tubature sono in piombo. Queste purtroppo non sono di nostra competenza, quindi noi non possiamo intervenire su questo. Al massimo potete magari suggerire di un controllo, se avete l'idea che possa allora, essere. Allora, innanzitutto è utile che chi pensa di avere le tubature in piombo controlli attraverso il condominio, attraverso i vicini, se è così. Poi può far analizzare il risultato al rubinetto, perché noi naturalmente faremo tutte le nostre analisi per ciò che ci compete, ma non siamo in grado di verificare ogni rubinetto della propria abitazione, quindi lo può far analizzare tranquillamente da enti privati. Possono esserci anche aziende sul nostro territorio disponibili a fare un servizio di questo genere, possono quindi anche rivolgersi alle nostre aziende. Quindi magari uno può prima di andare da un privato chiedere al gestore delle acque della propria città se è disponibile a fare un controllo così? Sì, se ha questa disponibilità, però lei capisce che, anche perché poi se si diffonde una certa psicosi del piombo, come a volte succede, vuol dire che migliaia di persone in una sola azienda vanno a chiedere le analisi, diventa veramente molto difficile, quindi bisogna non diffondere certi meccanismi psicotici e fermarci laddove si pensa che vi sia. Poi un altro elemento è che l'acqua deve stagnare, cioè deve star ferma almeno 4 ore, perché si accresca di un po' di piombo e poi bisogna vedere quanto. Allora è bene, per esempio, in alcuni casi, quando si sta a lungo fuori casa, quando si aprire i rubinetti, farli circolare, naturalmente anche adoperare la lavatrice, la lavastoviglie, e questo naturalmente porta ad un ricambio dell'acqua, e quindi l'acqua, anche se passa attraverso il piombo, non si arricchisce di piombo. Vi sono una serie di cautele di questo genere che vanno osservate. Far sempre circolare l'acqua, quello tra l'altro al di là del piombo, è una buona norma che riguarda qualunque tipo di rubinetto, insomma, no? Quando si sta un po' fuori è sempre meglio far circolare un po' d'acqua prima di berla. Talvolta, quando abbiamo delle tubature tanto vecchie, non è solo per ragione del piombo che vanno cambiate, perché spesso sono intasate di incrostazioni, perché spesso non funzionano più. Insomma, il bisogno di cambiarle coincide anche con la loro vetustà, non soltanto perché sono di piombo, ecco. Sì, perché comunque diventano poi un intralcio in generale, certo, ecco. Certo, certo. E no, non sono neanche una garanzia magari di sicurezza, di purezza dell'acqua. Ma spesso hanno perdite, spesso non hanno più, arriva poca acqua perché sono intasate, sono piegate, sono occluse, no? Quindi vi è una coincidenza, siccome appunto il piombo è un materiale vecchio, veniva adoperato molto tempo fa. Per le vostre aziende questo adempimento ha rappresentato una difficoltà oppure faceva parte comunque della normale manutenzione, diciamo, che ciascuno fa nelle proprie reti? Una normale manutenzione è che laddove era possibile, dove è stato possibile, sono stati sostituiti, e comunque tutte le nuove tubature, parlo da decenni a questa parte, non sono più state realizzate in piombo. Rimane un problema nei vecchi centri e nei vecchi centri storici, lì ci sono tubature. Però questo è il problema più generale dello stato degli acquedotti d'Italia. Forse è una storia che lei ha già sentito raccontare, ma questo è uno dei tanti problemi. Noi abbiamo reti dell'acqua vecchie, ogni tanto si denunciano le perdite, no? Di acqua. Come no? Sì. Che non è neanche il problema più grave, perché forse più di una perdita è più grave l'acqua al piombo. No? Sarà d'accordo con me. Sì, certo. Si perde acqua, sì, si perde una risorsa. L'acqua al piombo può creare dei problemi. Il problema dei depuratori: hanno tutti lo stesso denominatore comune, pochissimi soldi a disposizione per gli investimenti. Allora, quando noi facciamo il raffronto delle nostre tariffe con quelle all'estero, Germania, Francia, noi non so se ci beiamo, se siamo contenti, ma noi operatori sappiamo che molti possono, anzi veniamo in qualche modo accusati lo stesso, nel senso che noi abbiamo un terzo della Germania, un terzo della Francia come costo, cioè lì stiamo parlando del 300% in più. Allora, da cosa è data sostanzialmente questa differenza? Che noi siamo più furbi? No, è stata data da una semplice ragione, che più del 50% della tariffa in Germania, così vale per la Danimarca, e che pure ha acqua dappertutto, vale per l'Olanda, vale per la Francia, vale per moltissimi paesi, più del 50% di questa tariffa è per gli investimenti sulla rete e sui depuratori. In Italia sono una cifra estremamente marginale, nell'ordine del 15-20%. E quindi naturalmente laddove vi sono, lei pensi, in un centro storico dove occorrerebbe cambiare le tubature in piombo, occorrono soldi parecchi, perché il centro storico spesso ha lastricati, insomma ha dei pavimenti che vanno, delle pavimentazioni che vanno salvaguardate, quindi c'è un costo ancora maggiore rispetto ad un investimento normale. E lei pensa con quali risorse si va a sostituire lì la rete? No, lei ha perfettamente ragione. Vorrei approfittare di lei per sapere una cosa: dove stanno i consumi maggiori? Vabbè, i consumi maggiori sono effettivamente nell'agricoltura, okay. Parliamo dell'ordine del 60-65%. E i costi lì, dove, cioè le persone, i consumi come vengono pagati, in modo, diciamo, no, paritario all'Europa oppure sono, diversamente? No, assolutamente, tanto è una risorsa governata a parte, e anche questo è un errore del sistema italiano, cioè c'è un governo dell'acqua per l'agricoltura che è separato da quello per usi civili e per usi industriali. Bisognerebbe avere un approccio globale. L'acqua in Italia non viene dall'agricoltura, non viene pressoché pagata, però attento, o viene pagata pochissimo, però attenti, io mi rendo conto che la situazione in cui si trova l'agricoltura italiana gravarla di un costo molto alto o anche solo un costo legittimo dell'acqua sarebbe un problema grosso per la nostra agricoltura, che ha difficoltà a concorrere con mercati esteri, non naturalmente sul piano della qualità, ma proprio sul piano dei costi. Allora il problema è proprio il governo della risorsa. Questa risorsa può essere utilizzata in agricoltura imponendo intanto, per esempio, tecniche di irrigazione più moderne, certo, più regolate. Qui occorre introdurre la scienza e la tecnica e non più soltanto, come dire, la buona esperienza del vecchio contadino, che pure ci stava e sapeva quando risparmiare l'acqua. E l'altro elemento è, bisogna anche un po' riutilizzare l'acqua che viene depurata, per esempio. Certo. Viene depurata. Uh-huh. In Italia abbiamo normative che talvolta chiedono per l'acqua depurata norme caratteristiche che non sono richieste per l'acqua minerale, insomma, fa un po' ridere, ma è così. Sì, sì. E per cui naturalmente con questi criteri è inutilizzabile. Naturalmente per riutilizzarla l'acqua va depurata bene e occorrono gli impianti. Quindi capisce che ritorniamo nel meccanismo degli investimenti. Allora, gli investimenti sono il motore anche per una riforma generale. Gli investimenti hanno bisogno di visione, di politica, di governo e di risorse, se no non si fanno. Noi purtroppo, mi permetta di dirlo, in Italia siamo ormai affaccendati da tanti anni a discutere su il tema se il gestore deve essere pubblico, privato o così così. Allora è dura affrontare questi problemi. Secondo me è dura anche affrontarli, questo è l'ultima cosa, tassare l'acqua secondo il reddito, quella negli usi civili mi è sembrata una cosa anche quella assai discutibile, cioè ci troviamo sempre delle situazioni che poi scatenano dei vespai e non risolvono nulla. Tassare l'acqua secondo il reddito è una sciocchezza, perché innanzitutto, allora, parliamoci chiaro, ci sono già due meccanismi che possono regolare un'equa distribuzione dell'acqua. La prima, la salvaguardia di fasce deboli, e questo è possibile farlo. La seconda, la tariffa progressiva dell'acqua secondo i consumi. Ora, chi ha una piscina deve pagarla molto. Ci siamo? Ma non è che ce l'ho contro le piscine, piacerebbe anche a me, però voglio dire, un conto è l'acqua di cui ho bisogno per lavare i miei figli, che magari sono anche numerosi, e per dare da bere ai miei figli, perché non voglio, non posso comprare l'acqua minerale, ed un conto per chi si deve fare il bagno in piscina. Allora l'acqua in piscina venga pagata magari anche per quelli che devono avere lo sconto sulle fasce più basse. Però non si può stabilire il principio che l'acqua per le fasce medie o non abbienti costi talmente poco che la possano sprecare. Questo è un errore assolutamente. No, esatto. Non si fa percepire il valore. Ed è diseducativo. Infatti si fa una grande retorica sull'acqua, ma all'acqua nessuno dà importanza in Italia, no? Perché tutti sono disponibili a spendere cifre per il telefonino o per usare l'etere, che è solo aria che non si consuma, in cui navigano le onde dei nostri telefonini. Nessuno, no, fa un grande scandalo per spendere cifre talvolta anche considerevoli in una famiglia, e naturalmente tutti menano scandalo per pagare qualche centesimo in più l'acqua. Quindi siamo già ad un livello in cui all'acqua non viene data alcuna importanza, se non come strumento di polemica o di retorica politica. Grazie a Mauro D'Ascenzi, ricordo vicepresidente di Federutility. Vi ricordo anche che per riascoltare questa puntata bisogna andare sul sito di Radio 24, radio24.it, trovare la pagina del programma L'altro pianeta, e nei prossimi giorni troverete appunto a disposizione la puntata. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it, da Laura Bettini, buon anno e appuntamento al 2014.